Con Michele Villari, autore del libro Malcolm X, l'influenza politica nella musica afroamericana, che sarà presentato a Roma, Bibliotè, mercoledì 26 giugno 2019. Michele, ben trovato. Ben trovato a te, caro. Raccontiamo di cosa si tratta. Questo libro parla molto della musica jazz, sicuramente della musica, di tutta la musica afroamericana, un po' dalle origini, ma soprattutto dell'influenza che c'è stata a livello politico da parte di Malcolm X, che è quello che in qualche modo, insieme a Martin Luther King, ma ho preferito un po' Malcolm X perché è un po' più combattente, che hanno cambiato un po' la storia e l'atteggiamento degli afroamericani, nel senso da persone subenti a persone invece attive nell'ambito culturale e sociale della vita americana. Quindi un momento di cambiamento importante. È vero che l'abolizione della schiavitù è stata nel 1865, però è anche vero che insomma, ancora oggi ci sono dei seri problemi per quanto riguarda le persone con la pelle nera e quindi questi personaggi, diciamo, fondamentalmente hanno dato un po' la carica per avere un atteggiamento diverso, più presente, più vivo, più importante al colore della pelle e quindi a tutta l'espressione che ne deriva artisticamente e culturalmente. Insomma. La musica afroamericana è sempre al centro della tua attenzione anche nel lavoro precedente. Come nasce l'idea di questo nuovo libro? Sono un musicista di jazz, mi considero musicista di jazz, quindi l'amore, la passione per questa musica mi ha portato a cercare le radici di questa musica e l'ho trovata appunto nella cultura afroamericana. E quindi approfondire lo studio della musica vuol dire anche approfondire lo studio di quello che c'è intorno a questo tipo di espressione. E a forza di insomma, lavorare, studiare, suonare i brani, ti accorgi che dei brani come Strange Fruit sono dei brani che parlano della schiavitù, o Raging di Sonny Rollins parlano del nuovo stato della Nigeria, che al contrario non si legge Raging, al contrario si legge Nigeria, che la leggenda vuole che Sonny Rollins aveva la cartina al contrario quando ha scritto questo brano. E quindi fa capire quanto legame c'è fra questa musica e quanto legame c'è fra appunto il sociale che rappresenta questa musica. La cosa più bella che ho scoperto in questi anni di studio e di lavoro di musica è che poi non c'è differenza, o perlomeno per gli afroamericani non c'è differenza fra tipi di musica. Ogni afroamericano sa suonare il Dixieland, il bebop, il funky, il soul, cioè per loro la musica afroamericana è una soltanto, non è il jazz, allora io sono il jazz degli anni 20, no, io sono il jazz degli anni 50, no, per loro è soltanto una grande forma musicale che poi ognuno si esprime con quello che preferisce, ma non è che Rollins non sa suonare il soul o il funky, fondamentalmente. Questa è una cosa bellissima, no? Fa Sì. capire che non c'è differenza tra i generi musicali, c'è soltanto una scelta personale, ma fondamentalmente loro sanno suonare tutto quello che gli riguarda la loro storia, insomma. Che tipo di ricerca hai portato avanti nella realizzazione del libro? Innanzitutto, vabbè, la ricerca musicale, come ho detto prima, cioè il fatto di studiare dei brani che erano un po' fuori contesto. Sai bene che molti brani della storia di standard vengono da musical o dalla tradizione, da Gershwin o da Carmichael, cioè musicisti bianchi di grandissimo livello e poi riletti dagli afroamericani in maniera più swing, più creativa, tra virgolette, non che questi musicisti non erano creativi. Però a un certo punto scopri che questi musicisti compongono proprio dei brani loro e questi brani hanno una valenza, sono veramente. Alcuni di questi brani hanno una valenza politica e sociale, non sono più brani di amore, la canzonetta è fatta benissimo, ma appunto sentono il dovere di esprimere un disagio che stanno vivendo. Questo è il tipo di ricerca. L'altro tipo di ricerca è lo studio storico proprio dei personaggi che hanno cambiato un po' l'America e fra questi non si può negare che a parte i grandi personaggi bianchi ci sono appunto Black Power, Panther, o Malcolm X, o Martin Luther King, o addirittura cito anche Obama, insomma, che è un personaggio che è uscito all'ultimo del secolo, all'inizio del nuovo secolo, che però insomma, è stata una grande conquista, anche se ha lavorato molto poco per gli americani, ma non per colpa sua, perché insomma, comunque il colore della sua pelle non gli permette spesso di poter fare quello che ancora non gli permettono tanto, ecco, insomma. Sì, sì. Tutto è cominciato, immagino, visti i personaggi che hai citato, da Malcolm X a Martin Luther King, dagli anni 60. Quali sono stati poi nel corso dei decenni i riferimenti culturali, i personaggi di rilievo che poi hanno influenzato la musica? John Coltrane, sicuramente, anche se lui non si è mai dichiarato politicamente, ma ha cambiato religione. I personaggi del mondo del free jazz, Ornette Coleman, Chazzy Mingus, persone che fondamentalmente come artisti, Max Roach si era dichiarato politicamente, come artisti diciamo che continuano a stare un po' in disparte, però in realtà la loro espressione mi ha fatto capire che hanno appunto un riferimento sociopolitico. E altri musicisti importanti, non so, oggi c'è il mondo dell'hip hop che sta lavorando molto da questo punto di vista, tra l'altro il libro precedente che ho fatto, che appunto danno un cambiamento sociale, o tentano di dare un cambiamento sociale con le parole. E il mondo del jazz si sta unendo al mondo dell'hip hop, come puoi vedere c'è Steve Coleman che fa parecchi dischi con rappisti, e sono dischi veramente di jazz con l'influenza di questa musica hip hop, diciamo, e non viceversa, mentre finora era stato quello. Quindi altri riferimenti, ma guarda, c'ho la biblioteca piena di dischi con dei riferimenti, quindi ti vorrei citare anche a Armstrong, che voglio dire, risaliamo nell'ultimo secolo. Mi piace molto Mazzosa, insomma, tutti neri che spingono verso una direzione che poi è artistica, per carità, però insomma, tu sai bene che l'arte influenza molto il pensiero, o il pensiero influenza molto l'arte, insomma, quindi evidentemente una cosa unisce l'altra. C'è un personaggio di riferimento sicuramente, Spike Lee, che ha fatto un bellissimo film su Malcolm X, che è un altro afroamericano e si è dato molto da fare negli ultimi anni per dare insomma voce a questo popolo nero. Oppure ultimamente stanno uscendo dei grandi libri di scrittrici afroamericane, questo è molto interessante, perché finora le donne sono state un po' relegate, no? A parte le grandi cantanti, ma nell'ambito culturale, cioè nell'ambito della letteratura, ci sono state pochissime donne prese in considerazione, quando in realtà sono, in questo momento stanno uscendo donne molto importanti che scrivono romanzi, eccetera, eccetera. Quindi stanno uscendo una letteratura anche al femminile sulla vita americana moderna degli afroamericani. C'è questa Tayari Jones che ha scritto Matrimonio americano, molto bello, quella è molto, insomma, è una livello, un libro pure di riferimento ultimamente, il premio Pulitzer di Colson Whitehead, La ferrovia sotterranea, dove la protagonista è una donna. Quindi anche questo è importante, no? Nella cultura afroamericana sta cominciando a uscire la voce della donna, che prima era soltanto una voce di cantante, la Fitzgerald, Billie Holiday, eccetera, eccetera, adesso c'è invece una voce proprio, sia come scrittrice sia come protagonista di storie. Per saperne di più su questo tuo libro, ci lasci dei riferimenti internet? Sto facendo una pagina Facebook con la presentazione del libro, con quello che riguarda il libro. E ho comunque la mia pagina, è Michele Villari, o su Instagram, sempre Michele Villari, si possono trovare dei riferimenti su questo e anche sull'altro libro. Poi ho visto, c'è anche il sito internet delle edizioni. Sì, l'edizione Festo, sì. Pure. E allora ricordiamo l'appuntamento con la presentazione del libro Malcolm X, l'influenza politica nella musica afroamericana, a Roma, a Bibliotè, mercoledì 26 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autore Michele Villari. Un abbraccio, in bocca al lupo, e a presto, Michele. Grazie, grazie Federico, a presto.